in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi abbiamo anche qualche minuto meno del solito e sono preziosi i minuti e questo mi crea ancora qualche difficoltà in più perché i titoli dei quotidiani oggi sostanzialmente, a parte quello del Sole 24 Ore che come quasi sempre è molto più concreto e non lo faccio per difesa d'ufficio del quotidiano per il quale scrivo ma perché è un dato di fatto, quindi il titolo del Sole 24 Ore è molto concreto, il resto è forse, ma si vedrà, vedremo, dipende. Ed è particolarmente difficile, ecco, considerare che queste siano, che siano pagine in qualche modo utili, perché stiamo parlando di questioni che poi devono essere risolte e sarebbe interessante, nessuno ha tempo e soprattutto voglia di farlo, vedere tra 3 giorni, quando si voterà per questo famoso voto dal quale pare dipendano, pare rispetto ai retroscena che vengono elencati, pare dipendano le sorti del governo, andare a vedere cosa era stato dichiarato, ma ripeto è un esercizio che diventa inutile, le cose concrete sono altre e da qui per esempio l'intervento del presidente di Confindustria di ieri a questo grande vertice che c'è stato naturalmente in modalità digital come si dice adesso, cioè le persone erano in collegamento, c'erano i giornalisti di Sky a Courmayeur e poi si sono collegati da tutta Italia molte persone, personaggi della politica e dell'economia italiana, tra i quali il presidente di Confindustria Bonomi, che lo ricordo a scarso di equivoci naturalmente è Confindustria l'azionista di maggioranza di questo gruppo editoriale e quindi anche del Sole 24 Ore che sto per citare. Il titolo è "Niente veti sul nuovo MES e più crescita per creare lavoro", perché questo è il tema. Ci sono i veti incrociati sul MES, un voto che sta arrivando. Presidente Conte che ieri dà un'intervista lunga, una pagina a Repubblica per dire che non ci saranno problemi e da qui appunto chi avesse la curiosità, il tempo, la pazienza soprattutto di tenere da parte le interviste fiume di questi giorni e vedere poi veramente che cosa succederà il 9. A proposito di altri temi concreti, una delle tante inchieste della domenica, richiamata in prima pagina sul Sole 24 Ore di Roberto Darin, il Nord-Est lavora i suoi tronchi in Austria, la crisi delle segherie, danni di 1 miliardo in 10 anni. E poi questa questione del Recovery Fund, che sappiamo in realtà non si chiama proprio così, si chiama Next Generation EU, che con un gioco di parole vuol dire sia Unione Europea che EU, cioè EU che potrebbe anche essere l'abbreviazione di Youth, gioventù, perché qui si parla del futuro di questo, dell'Unione Europea. Domani il piano al Consiglio dei Ministri sulla Task Force, quindi mentre lo sappiamo anche qui, ma ve lo ricordo perché anche qui basta uno sforzo per andare sui siti dei vari ministeri dell'economia dei vari paesi, in Francia sono già pronti i bandi, noi qui stiamo ancora parlando di come sarà la Task Force che deve decidere come scegliere i progetti da presentare all'Unione Europea. Corriere della Sera, MES alta tensione nel governo. E poi vi segnalo invece, perché questo è un tema concreto, l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che del Sole 24 Ore è stato direttore 2 volte e naturalmente anche del Corriere della Sera e adesso ne è uno degli editorialisti di punta, che torna sul tema della scuola. Perché tra le tante dichiarazioni, sì, forse, ma vedremo, c'è quella sul ritorno a scuola di tutte le gli studenti che non sono ancora tornati a scuola, quindi soprattutto medie e licei. Il titolo dell'editoriale di Ferruccio De Bortoli è "Un'apatia colpevole sul sapere" e vi leggo le prime righe. "Se la scuola fosse un'attività economica, avesse un suo fatturato, l'avremmo trattata certamente meglio, almeno al pari di altri settori colpiti dal virus. Se le ore perdute di lezione si traducessero in una posta di bilancio aziendale, avessero la stessa importanza di un credito bancario in sofferenza o di una commessa perduta, l'allarme sociale suonerebbe forte, incessante. Invece non è così, pur essendo il nostro paese quello che nell'OCSE, l'Organizzazione dell'Economia Industriale, ha chiuso le scuole più a lungo, non dimentichiamolo mai, 18 settimane contro una media di 14. E dell'ultimo DPCM, acronimo che speriamo il 2021 si porti via, dice Ferruccio De Bortoli, tutto è parso più importante del ritorno alle lezioni in presenza. E da qui di nuovo, l'avete sentito, non lo citeremo, le varie dichiarazioni della ministra Azzolina, che come sempre scalpita, ma evidentemente nessuno l'ascolta, perché come dice Ferruccio De Bortoli, nel DPCM certezze sul ritorno a scuola non ce ne sono. La Repubblica, ultimatum del PD sul MES, il governo legato alla riforma. Vi segnalo dalla prima pagina di Repubblica l'inchiesta Long Form, che è un'inchiesta in generale, un lungo articolo da cui il titolo di 4 pagine. In questo caso Filippo Santelli, che di Repubblica è corrispondente dalla Cina, racconta l'odissea di un italiano che è stato positivo ed è racconta appunto come il suo caso, poi è sempre difficile dire che un caso è uguale a tutti, però è un esempio, un racconto in prima pagina, in prima persona, io positivo nella stanza prigione di Nancino. Con la Repubblica, come ogni domenica, in edicola L'Espresso, dedicato alla sanità, l'illustrazione è di Maurizio Biani. Dai, qui giù qualche goccia arriverà, e il tema è quello dei vaccini. Il fatiscente magazzino dei vaccini gestito dal Ministero alle porte di Roma, la privatizzazione della sanità lombarda, i medici e gli infermieri precari, così l'Italia si prepara alla chiusura di Natale e alla corsa all'antidoto in ritardo. Che la sanità italiana abbia mostrato sicuramente dei problemi in questa pandemia, in dubbio, ricordiamolo però sempre, è un sistema sanitario tra i più con la storia più lunga in Europa, ha compiuto da poco 40 anni, garantisce comunque tutta una serie di cure a chiunque, a differenza di quello che accade in tanti altri paesi, Stati Uniti in primis. Poi che ci siano dei problemi, ripeto, in dubbio, e speriamo che vengano risolti in un modo più lucido, più trasparente, soprattutto più onesto di quello che appare in questi giorni. Avrete sentito tutta la polemica intorno al documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che il presidente vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è anche un italiano, Ranieri Guerra, ha cercato di non far pubblicare tutta la polemica che ne è suscitata. Ranieri Guerra, tra l'altro, è anche consulente di questo governo, ma è lo stato anche di molti altri governi. L'Italia si è arrivata alla pandemia con un piano antipandemia che era stato fintamente aggiornato e che era invece vecchio di decenni, quindi tutti i disastri delle RSA, gli ospedali che non sono riusciti a organizzare delle zone no Covid e via dicendo. Quindi sicuramente i problemi ci sono negli appalti, avrete sentito di questo fatto scandaloso, del fatto che sono già state richieste delle siringhe per inoculare i vaccini, che sono state paragonate a Ferrari per fare dei viaggi per i quali sarebbero sufficienti delle 500, cioè ci sono siringhe che costano molto meno, come quelle che come quelle delle quali si sta approvvigionando la Francia, ma qui da noi abbiamo le super siringhe che costano ovviamente tantissimo. Insomma, i problemi restano. Anche qui ci vorrebbe molta, molta serietà e trasparenza, e non super commissari e super consulenti come Ranieri Guerra, che ricordiamolo, non ha ancora dato una versione convincente di questa accusa. Che sono già mesi, in realtà da maggio una prima inchiesta di Report aveva fatto, cioè su questa mancata pubblicazione del rapporto dell'OMS, non fatto da Ranieri Guerra naturalmente, ma da altre persone che lui aveva appunto censurato sulle mancanze in Italia. Adesso c'è stata un'altra puntata di questa inchiesta e ancora Ranieri Guerra non ha fornito una versione convincente per, diciamo, scagionarsi da queste accuse gravissime di aver appunto censurato un documento della sua stessa organizzazione. La Stampa, Recovery e MES, ecco il piano. Intervista qui, questa è un virgolettato perché La Stampa ha intervistato il ministro Amendola per i rapporti con l'Europa. La fotonotizia dedicata al derby che c'è stato ieri, il derby di Torino, Juve spietata, Toro sbandato, Pirlo fa il suo primo derby, Pirlo naturalmente l'allenatore della Juventus. Il Messaggero, denuncia penale per i furbetti, questa è l'ipotesi di Miozzo, capo del comitato tecnico scientifico, per le autocertificazioni fasulle si contesti il falso in atto pubblico. E in campo, questa è una dichiarazione fatta dal ministro Lamorgese appunto a durante questo vertice Figital che c'è stato da Courmayeur organizzato da Sky Italia, in campo 70.000 agenti, i governatori potranno rinviare, eccolo qua, il ritorno a scuola in caso di criticità. La fotonotizia è dedicata alla prima che c'è stata ieri del Barbiere di Siviglia in scena al Teatro all'Opera di Roma. Naturalmente non è stata una prima fisica, così come non lo sarà prima della prima vuol dire il debutto della stagione operistica di un teatro, come non lo sarà quella di domani al Teatro alla Scala, perché appunto la pandemia ha impedito questo evento si svolgesse dal vivo come tantissimi altri, e quindi c'è stato un film live del Barbiere di Siviglia senza spettatori, firmato dal regista Martone, che chi ha avuto appunto la possibilità di seguirlo in televisione ieri è stata una soluzione molto originale e molto apprezzata. Vi segnalo dal Messaggero l'editoriale di Romano Prodi, come sempre quasi sempre alla domenica sul Messaggero: appello all'esecutivo, i finti sacrifici per le feste e quelli veri in agguato, naturalmente quelli veri economici. E poi se qualcuno ha la pazienza di leggere questo articolo, perché come avrete forse sentito, siccome molti dei dipendenti della pubblica amministrazione sono in smart working, con inevitabili problemi di risoluzione delle pratiche burocratiche che da casa per mille motivi è più difficile risolvere, lavorando da casa intendo, ecco, c'è un piano del governo, aumenti agli statali per evitare lo sciopero, perché in tutto questo, come avrete sentito, i sindacati hanno proclamato uno sciopero della pubblica amministrazione per il 9 di dicembre. Ci lasciamo un attimo, sentiremo anche un aggiornamento sul meteo. No? In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, tanti messaggi che apprezzo moltissimo. Però cito anche un ascoltatore che dice che non ho dignità professionale perché faccio solo critiche e non proposte. La dignità professionale di un giornalista è esattamente questa, poi che le critiche siano fatte bene o fatte male, questo è ancora un altro capitolo, ma i giornalisti sono fatti per osservare quello che in questo caso stavamo parlando di politica, ma in qualsiasi tema. Dopodiché, ripeto, le critiche possono essere in buona fede o malafede, costruttive o non costruttive, ma è questo il nostro lavoro: far notare le contraddizioni, far notare le cose che non vanno. È in politica che c'è una parte, che è la maggioranza, che fa delle proposte, cerca di portare avanti delle cose, e l'opposizione, che se critica è obbligata a fare una critica costruttiva. E questo, secondo me, tra l'altro, molto spesso nel nostro paese non succede. Detto questo, siccome dice anche che il nostro padrone è Bonomino, guardi, ho detto all'inizio che Confindustria, associazione della quale il presidente Bonomi è al momento il presidente, poi ci sono stati presidenti in passato, ce ne saranno in futuro, perché a sua volta un'organizzazione democratica che di volta in volta cambia i vertici. No, ho detto per trasparenza che è l'azionista di maggioranza di questo gruppo, non lo sento assolutamente come il mio padrone qui in questa radio in particolare, che non gode di contributi pubblici, cioè, se vogliamo proprio per estremizzare, l'unico padrone non è neanche la parola giusta, però sicuramente questa radio per esempio dipende dagli inserzionisti pubblicitari, che a loro volta decidono di scegliere la nostra radio, danno fiducia alla nostra radio, se evidentemente lo fanno gli ascoltatori. E se lei dice che sono diventata insopportabile, pazienza, io cerco, ripeto, la mia dignità professionale, lo dico con forza in questo momento così difficile per questo paese, per tutto il mondo, è di fare un fact checking, come dicono gli anglosassoni, alle cose che ci vengono dette da chi ha in mano in questo momento il destino di questo paese. Il Giornale, guerra di Natale, in campo 70.000 agenti. La Verità, mascherine e intrigo internazionale tra Vaticano, San Marino ed Ecuador. E poi questo articolo che vi segnalo, magari può interessare all'ascoltatore che dice che bisogna fare critiche costruttive, tra noi e la trappola del MES solo i ribelli del Movimento 5 Stelle. E qui invece un articolo che vi voglio segnalare perché questo sì, trovo secondo me totalmente in malafede, di Maria Giovanna Maglie, grande sostenitrice del presidente Trump, che lo ricordiamo ha appena dichiarato, è al di là di tutte le feste di Natale che sta organizzando contro ogni consiglio che danno le autorità sanitarie locali, lui e tutte le persone che appartengono all'amministrazione di Donald Trump, in testa Mike Pompeo, segretario di Stato, cioè equivalente del ministro degli esteri, stanno organizzando tutte queste feste di Natale, che Fauci, l'immunologo, continua a sgolarsi dicendo che possono essere dei super spreader event, cioè dei focolai molto importanti. Donald Trump è andato in Georgia, dove si vota per eleggere i due senatori che potrebbero cambiare gli equilibri del Senato. Ha detto che se il Senato non sarà più repubblicano, l'America diventa un paese socialista. Bene, Maria Giovanna Maglie titola: il sistema americano ha un problema, in troppi non ci credono più. E Donald Trump, che è stato sostenuto da Fox News, avrete visto sicuramente anche almeno, ce ne sono stati almeno tre, ne avrete visto magari uno dei film sulla storia di questo network americano Fox News, che è il più seguito in America. E Donald Trump ha detto: non guardate più Fox, sono dei traditori. Questa è l'idea che Donald Trump ha appunto del giornalismo, tornando a bomba. E scrive poi Maria Giovanna Maglie, che trovate a pagina 11, che appunto Fox è stata ormai scalzata nei favori di Donald Trump da Newsmax. Newsmax l'ha fatto con Fox quando, nelle tre settimane dopo l'Election Day, gli ascolti in prima serata di Fox sono scesi del 29%, quelli dell'altra sono aumentati del 277%. E tra l'altro questo tema del sistema americano in cui non si crede più, chi poi non si sa, in un sistema dove è stato ripetutamente certificato ormai che il voto popolare questa volta è stato largamente vinto da Joe Biden, presidente eletto, che ha vinto con oltre 80 milioni di voti, 7 circa in più di Donald Trump. Libero: Putin vaccina tutti gratis. Questa per esempio è un reportage interessante, una notizia interessante, visto che stiamo parlando tanto del vaccino di quello di Pfizer BioNTech, che lo ricordiamo è stato reso possibile anche da un maxi finanziamento dell'Unione Europea, circa 500 milioni per la ricerca. Ora questo vaccino è stato già approvato dall'autorità per la regolazione dei farmaci britannica, e il ministro della salute Hancock, sempre per tornare all'ascoltatore che dice che bisogna avere un po' di dignità professionale, ecco, è andato in Parlamento, ha detto che vedete i benefici della Brexit, possiamo approvare i vaccini a tempi record. Si è naturalmente dimenticato di dire, ma lo hanno fatto i giornalisti, alcuni giornalisti britannici, che non si capisce come possa essere una meraviglia della Brexit, visto che con la Brexit, che dovrebbe diventare realtà alla fine di quest'anno, appunto il Regno Unito sarebbe sganciato dall'Unione Europea, quell'Unione Europea che ha finanziato quel vaccino perché potesse essere pronto in tempi così veloci. Putin vaccina tutti, quindi abbiamo detto vaccino di Pfizer-BioNTech già disponibile nel Regno Unito, poi ci sono anche i piani in Germania, dove avrete sentito stanno già approntando dei luoghi dove si potrà essere vaccinati in tempi molto rapidi, tipo catena di montaggio. Qui da noi abbiamo a Pratica di Mare, ne danno notizia alcuni giornali, invece verrà approntato il lab dove toccare questi vaccini. Sapete che alcuni di essi, come appunto quello di Pfizer BioNTech, hanno bisogno di temperature molto basse, altri invece temperature anche da frigorifero normale, quindi vedremo. Però intanto Putin nel senso Mosca, la Russia, ha iniziato la somministrazione del siero, ricorderete, annunciato da Putin e battezzato Sputnik 5, alle categorie più esposte. Decine di paesi l'hanno prenotato perché il governo italiano non lo compra. Questo naturalmente la risposta è perché il governo italiano, l'Italia fa parte dell'Unione Europea, che ha prenotato, invece sta prenotando e acquistando vaccini in un modo centralizzato, e vedremo se si rivelerà una scelta giusta. Poi Vittorio Feltri, a proposito di appunto giornalisti che a volte cercano di difendere la propria categoria, l'ho fatto anch'io prima, c'è un tema che è quello di quando si commette un errore. Naturalmente gli errori si fanno, chi non fa non sbaglia, quindi gli errori si commettono quando si fa, e Vittorio Feltri è toccato, diciamo scottato, da un articolo che è apparso su Io Donna, critico anche verso di lui, di Antonella Baccaro. Io Donna è il supplemento del Corriere della Sera che esce ogni sabato, e quindi fa notare che ieri su Io Donna è stato pubblicato in due pagine diverse lo stesso articolo, in questo caso un articolo di Vittorio Sgarbi. Ripeto, certo, non è piacevole quando succede, anche lo dico per esperienza personale, sbagliare, scrivere qualcosa di sbagliato, pubblicare nel posto sbagliato, spostare un titolo, usare male il correttore, sono tutte cose che fanno male, perché l'ambizione sarebbe quella di scrivere l'articolo nel migliore dei modi possibili dal punto di vista dell'ortografia, della sintassi e naturalmente della correttezza delle informazioni. Torno al fact checking, e però insomma capita, quindi ha ragione Vittorio Sgarbi, a volte si sbaglia, è giusto farlo notare. Sono sicura che all'interno della redazione di Io Donna saranno partiti alcuni urli e strepiti per questa svista, però ripeto, chi non fa non sbaglia. E ce l'ho qua sotto, Io Donna, in effetti è proprio così, pagina 41 e pagina 46, è stato ripubblicato lo stesso articolo, ripeto, qui da persona a cui è successo tantissime volte di sbagliare, di dire delle cose imprecise, cerco di correggermi o in diretta o magari scrivendo su Facebook, però purtroppo succede. E non è neanche bello, anche qui lo dico, fare sempre le pulci agli articoli degli altri. Quando a me capita, naturalmente, quando gli errori sono palesi, è anche giusto magari segnalarli al diretto interessato, però, insomma, ripeto, chi non fa non sbaglia. Il Giorno, il Viminale, guai ai furbetti di Natale, questo è il tema della circolare ai prefetti sugli spostamenti della festività, il rischio è quello di un esodo massiccio prima del 21 dicembre, ricorderete com'era capitato nel primo weekend di lockdown in marzo, dove c'erano stati questi esodi, e poi naturalmente ricordiamo quello che è successo in estate. Domani ha, come sempre in prima pagina, due articoli, un editoriale del direttore Stefano Feltri, ora tocca solo noi decidere quante vite salvare a Natale, il tema appunto è di come affrontare questo nuovo DPCM singolarmente e anche magari di come criticarlo, e poi però il titolo principale dedicato a Patrick Zaki, forse oggi potrebbe esserci un'udienza che è stata rimandata, avrebbe dovuto essere ieri, per la liberazione di questo ragazzo di egiziano che però studia a Bologna, e quando era rientrato in Egitto il 7 febbraio era poi stato arrestato appunto al rientro nel suo paese. Ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e a proposito di soffrire un po' quando si viene criticati, sì, ci sono alcuni messaggi, non li leggo, cito però uno senza leggerlo, che dice che Biden ha frodato le elezioni. A questo ascoltatore dico solo, e trova facilmente in rete tutto questo, che il procuratore generale degli Stati Uniti Bill Barr, uno degli alleati più stretti di Trump, perché procuratore generale vuol dire anche è l'equivalente del nostro ministro della giustizia, è il capo del Department of Justice, è stato sicuramente uno dei più strenui difensori di Donald Trump anche durante la vicenda del tentativo di impeachment, che ha sempre dichiarato sbagliato sia le accuse che appunto l'intero processo di impeachment. Bill Barr ha dichiarato settimana scorsa, ripeto, Bill Barr, e è una dichiarazione fatta all'Associated Press che l'ascoltatore può facilmente trovare, che in tutte le indagini che ci sono state per capire se queste frodi elettorali ci siano veramente state, nessuna di queste indagini, ripeto, parola di Bill Barr, attuale ministro della giustizia americano, non ci sono state, e le piccole inesattezze che sono venute fuori dai riconteggi, nessuna di queste avrebbe cambiato in qualche modo il risultato di alcuna singola corsa negli stati. Dopodiché, se l'ascoltatore vuole continuare a pensare che invece Biden ha rubato questa elezione, però prima appunto gli consiglio di leggere queste dichiarazioni. Avvenire, Un bellissimo titolo, finalmente Resistenza Umana. Perché? Perché ieri è stata la giornata dei volontari e quindi si sono celebrati i volontari che salvano il mondo e anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso la sua gratitudine. Il Fatto Quotidiano, Fontana, la tragedia di un uomo ridicolo, il tema naturalmente è il Presidente della Regione Lombardia Fontana, qui in Lombardia continuiamo ad avere dei grandi numeri di persone che non sono riuscite a vaccinarsi contro l'influenza e adesso Fontana dice, lo riporta il Fatto Quotidiano, voglio comprare anti-influenzali ma nessuno firma per paura di indagini e la replica nessun ruolo negli acquisti. Il Manifesto, ricoveri di fortuna, mentre impazza il pallottoliere in vista del voto parlamentare sul MES, di cui abbiamo parlato prima, PD e Movimento 5 Stelle provano a puntellare il governo. Il numero dei dissidenti grillini si riduce e Conte per il suo intervento in aula apre l'ombrello del ricovery europeo e Gualtieri, ministro dell'economia, che ribatte, sono assolutamente fiducioso. Dalle pagine interne, prima di passare velocemente ai supplementi domenicali, vi segnalo un articolo della serie A Tavola Con di Paolo Bricco che a settimane alterne sulla domenica appare con l'altra serie di incontri a tu per tu. Questa settimana Paolo Bricco ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il titolo dell'articolo è Non credo che le ragioni strutturali della centralità di Milano siano svanite. E poi vi segnalo una bellissima inchiesta di Nicole dell'Innocenti, che è la corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Perché una delle tante conseguenze della Brexit, abbiamo detto appunto veramente conto alla rovescia ormai, il 31 dicembre sarà dopo il 31 dicembre che sia una hard Brexit, cioè senza accordo, o una Brexit con accordo, sarà appunto la exit della Great Britain dall'Unione Europea, quindi diventeranno per esempio norma questi cambiamenti sul duty free, schiaffo di Londra allo shopping, da gennaio abolito il duty free, invece di estendere ai cittadini europei il rimborso dell'IVA sugli acquisti in Gran Bretagna, il governo lo ha eliminato per tutti in modo da risparmiare, ma la decisione, penalizzando il turismo, potrà essere un boomerang. Dalla pagina Sport e Business, che come ogni domenica esce all'interno del Sole 24 Ore, questa settimana dedicata allo sci alpino, Marco Bellinazzo e Mario Nicoliello ci raccontano sci alpino, la pandemia taglia del 20% i ricavi italiani. E poi la sezione Lifestyle, Fabrizio Avilla invece racconta terrazzi caldi d'inverno, cresce la voglia di stare all'aperto, sapete che era una delle grandi questioni dell'estate, no? Che comunque potendo stare all'aperto questo diminuiva la possibilità di diffusione del virus, in inverno succede il contrario, cresce la voglia di stare all'aperto anche nella stagione fredda, ora è più facile grazie a soluzioni di design per riscaldare, isolare e proteggere in modo elegante gli spazi. Dal Corriere della Sera vi segnalo questa storia straziante di un prete, si chiamava Leonardo Grasso, un rogo uccide il frate degli ultimi, in fiamme una comunità di recupero nel Catanese, morto il sacerdote, fermato uno degli ospiti, ed è davvero toccante la storia che racconta Salvo Toscano di quest'uomo. Aveva preso i voti a 50 anni, dopo una vita normale di agio e di svaghi con poca confidenza, con messe e preghiere, un lavoro da agente immobiliare, un'attività avviata in 6 giorni, nel 1988 aveva visto morire entrambi i genitori e aveva raccontato, capii che sprecavo il mio tempo, e da qui appunto la scelta di prendere i voti. Ma come vi dicevo, in questi pochissimi minuti che ci restano, vi segnalo la domenica del Sole 24 Ore e come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi che si intitola Il posto ed è una citazione di Montaigne. La grandezza dell'animo non è tanto nell'andare in alto o nell'andare avanti, quanto nel saper tenersi al proprio posto e limitarsi. Lo dico anche a me stessa, anche per far contento l'ascoltatore che mi ha così ripresa la domenica mattina, ma scrive Ravasi. Il grande Montaigne, con la sua intelligenza folgorante, ma anche con un'osservazione acuta della realtà quotidiana, ha lasciato un'impronta non solo nella cultura e nella società del Cinquecento francese, ma anche nei secoli successivi. Lo sguardo che si riflette nei suoi essay, i saggi, che sono anche condensati dotati di saggezza, riesce a perforare la superficie degli eventi e degli atti umani, ne intuisce le contraddizioni e gli splendori, ne dipana i grovigli, ne illumina gli angoli oscuri, senza rendere mai scipito il sale dell'ironia. Così accade per il frammento sopra citato. Quante energie vengono sprecate per andare oltre le proprie capacità? Quanta polvere è sollevata per occultare le debolezze? Quante dosi massicce di illusioni vengono versate nelle aspirazioni impossibili? Quanto stress e notti insonni sono consumate per primeggiare? Avere la consapevolezza del proprio limite è paradossalmente segno di grandezza, di mente e di cuore. Essere come Dio è il sogno diabolico e frustrato di Adamo. Al contrario, il vero sapiente confessa: non si esalta il mio cuore, né i miei occhi mirano in alto, non cerco cose grandi o meraviglie più alte di me. La copertina però appartiene alla serie in cui grandi direttori d'orchestra raccontano grandi compositori. Questa settimana Riccardo Sciai racconta Ludwig van Beethoven e Beethoven discese dal cielo. Pochissimi secondi per dirvi la copertina di Robinson, il supplemento della Repubblica, che esce al sabato ma resta poi in edicola tutta la settimana. Natale con i tuoi libri, tanti consigli appunto per leggere durante queste feste. E poi vi segnalo, perché lo trovate in edicola anche oggi, dal Foglio, un po' la storia raccontata da Pietro Pietrucci di quel tremendo conflitto che continua a insanguinare il Corno d'Africa, Tigre contro Tigre, conquistatori e conquistati ma separati soltanto da un fiume, storia e retroscena di una guerra che da 100 anni insanguina il Corno d'Africa. E poi l'ultimissima segnalazione, la lettura del Corriere della Sera, Armando Milani ad Armando Milani è affidata la copertina, un artista come sempre, e la lunga parte iniziale, anche qui molto interessante, meritocrazia, inganni e speranza. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Peter Bescapa in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e buona domenica.